Cari fratelli e sorelle, oggi è opinione comune che il cristianesimo sarebbe una religione europea che poi ha esportato la cultura europea in altri paesi. Ma la realtà è molto più complicata e complessa, non solo che la radice della religione cristiana si trova a Gerusalemme, nell'Antico Testamento, nel mondo semitico, e si nutre sempre da questa radice dell'Antico Testamento, ma anche l'espansione del cristianesimo nei primi secoli è andata ugualmente verso Occidente, il mondo greco-latino, dove si è formato il cristianesimo greco-latino che poi ha creato la cultura europea, è andata ugualmente verso Oriente, fino alla Persia, fino alla India, e qui si è formato un cristianesimo di una cultura diversa in lingue semitiche, con una propria espressione e identità culturale. Per mostrare questa pluriformità culturale della unica fede cristiana dagli inizi, nella catechesi del mercoledì scorso ho parlato di un rappresentante di questo altro cristianesimo oggi quasi sconosciuto da noi, su Afrate il Persiano, il Saccio. Nella stessa linea vorrei parlare oggi su San Efrem Siro, che era il più importante rappresentante del cristianesimo di lingua siriaca. Efrem è nato attorno al 306 in una famiglia cristiana e si formò e crebbe accanto a Giacomo, vescovo di Nisibi, 303 a 338, insieme a lui fondò la scuola teologica della sua città. Ordinato diacono, visse intensamente la vita della locale comunità cristiana fino al 363, anno in cui Nisibi cadde nelle mani dei persiani. Efrem allora emigrò a Edessa, dove proseguì la sua attività di predicatore. Morì in questa città l'anno 373, vittima del contagio contratto nella cura degli ammalati di peste. Non si sa certamente se era monaco, in ogni caso è sicuro che è rimasto diacono tutta la sua vita e ha abbracciato la verginità e la povertà nella sua vita. Così appare nella specificità della sua espressione culturale la comune e fondamentale identità cristiana, la fede, la speranza, questa speranza che ci permette di vivere povero ed avercene in questo mondo, ponendo tutta la sua speranza al Signore, e finalmente carità, fino al dono di se stesso nella cura degli ammalati di peste. Sant'Efrem gli ha lasciato una grande eredità teologica. La specificità del suo lavoro teologico è che qui si incontrano teologia e poesia. Era un grande poeta e ha presentato la sua teologia in gran parte in forma poetica. La poesia gli permette di approfondire la riflessione teologica attraverso paradossi e immagini, e nello stesso tempo così la sua teologia diventa liturgia, diventa musica. Lui era anche un grande compositore, musicista. Teologia, riflessione della fede, poesia, canto, lode di Dio vanno insieme, e proprio in questo carattere liturgico della sua teologia appare con limpidezza la verità divina. Non posso adesso presentare molto, soprattutto la poesia è sempre intraducibile, ma per dare almeno un po' un'idea della sua teologia poetica, vorrei citare due inni, almeno in parte, avvicinandosi l'avvento, prima un inno sulla Natività di Cristo. Scrive Efrem: il Signore venne in lei per farsi servo il Signore viene farsi servo. Il Verbo venne per tacere nel suo seno. Il fulmine venne in lei per non fare rumore alcuno. Il pastore venne in lei ed ecco l'agnello nato che sommessamente piange. Poiché il seno di Maria ha capovolto i ruoli, colui che creò tutte le cose mi è entrato in possesso ma povero. L'Altissimo venne in Maria ma vi entrò umile. Lo splendore venne in lei ma vestito con panni umili. Colui che racisce tutte le cose conobbe la fame. Colui che abbevera tutti conobbe la sete. Nudo e spogliato uscì da lei, egli che riveste di bellezza tutte le cose. Poi un inno su Adamo e sul mistero dell'Eucaristia. Fu chiudendo con la spada del cherubino che fu chiuso il cammino dell'albero della vita, ma per i popoli il Signore di quest'albero si è dato come cibo, lui stesso nell'oblazione eucaristica. Gli alberi dell'Eden furono dati come alimento al primo Adamo. Per noi il giardiniere del giardino in persona si è fatto alimento per le nostre anime. Infatti, tutti noi eravamo usciti dal paradiso assieme con Adamo che lo lasciò indietro. Adesso che la spada è stata tolta laggiù sulla croce dalla lancia, noi possiamo ritornarvi. E ancora un ultimo esempio dei inni di Sant'Efremo, dove parla della perla che è simbolo della ricchezza, della bellezza, del dono della fede. Posi la perla, fratelli miei, sul palmo della mia mano per poterla esaminare. Mi misi ad osservarla dall'uno e dall'altro lato. Avevo un solo aspetto da tutti i lati. Così è la ricerca del Figlio, imperscrutabile, perché essa è tutta luce. Nella sua limpidezza io vidi il limpido che non diventa opaco e nella sua purezza il simbolo grande del corpo di nostro Signore, che è puro. Nella sua indivisibilità io vidi la verità, che è indivisibile. La figura di Efrem, proprio perché così lontano in un'altra cultura e molto vicino a noi, è ancora pienamente attuale per la vita delle varie chiese cristiane. Lo scopriamo in primo luogo come teologo che a partire dalla Sacra Scrittura riflette poeticamente sul mistero della redenzione dell'uomo operata da Cristo, Verbo di Dio incarnato. La sua è una riflessione teologica espressa con immagini e simboli presi dalla natura, dalla vita quotidiana e dalla Bibbia. Alla poesia e agli inni per la liturgia Efrem conferisce un carattere didattico e catechetico. Si tratta di inni teologici insieme adatti per la recita o il canto liturgico. Efrem si serve di questi inni per diffondere, in occasione delle feste liturgiche, la dottrina della Chiesa. Nel tempo essi si sono rivelati un mezzo catechitico estremamente efficace per la comunità cristiana. Proprio cantando, celebrando, lodando Dio, vediamo non solo la bellezza, ma la verità della fede. Incontriamo la verità in persona, Cristo. È importante la riflessione di Efrem sul tema di Dio creatore. Niente nella creazione è isolato. Il mondo è, accanto alla scrittura, una Bibbia di Dio. usando in modo sbagliato la sua libertà, l'uomo capovolge l'ordine del cosmo. Per Efrem è rilevante il ruolo della donna. Il modo in cui Ele ne parla è sempre ispirato a sensibilità e rispetto. La dimora di Gesù nel seno di Maria ha innalzato grandemente la dignità della donna. Per Efrem, come non c'è redenzione senza Gesù, così non c'è incarnazione senza Maria. Le dimensioni divine e umane del mistero della nostra redenzione si trovano nei testi di Efrem in modo poetico e con immagini fondamentalmente scritturistiche, egli anticipa lo sfondo teologico e in qualche modo lo stesso linguaggio delle grandi definizioni cristologiche del Concilio del V secolo. Efrem, onorato dalla tradizione cristiana con il titolo di cetra dello Spirito Santo, restò diacono della sua Chiesa per tutta la vita. Fu una scelta decisiva ed emblematica. Egli fu diacono, cioè servitore, sia nel ministero liturgico, sia più radicalmente nell'amore a Cristo, da lui cantato in modo ineguagliabile, sino infine nella carità verso i fratelli, che introdusse con rara maestria nella conoscenza della divina rivelazione. Grazie.